Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Cerimonia al Quirinale alla vigilia del giorno del ricordo. Mattarella parla del tragico destino del confine orientale. 35.000 schede per altrettanti dispersi nel patrimonio documentale della Croce Rossa del Friuli Venezia Giulia, fra loro tanti esuli. 735 euro per la luce, 944 per il gas, è stata la spesa media per le famiglie della regione, in calo dall'anno prima. La pioggia chiude alcune piste da sci, anche la nebbia pregiudica la sicurezza, forti piogge per tutto il fine settimana. Una data in più al Rossetti di Trieste per il musical dei Record Cats, successo di pubblico al botteghino. 12:31, buongiorno da Francesca Terranova e Rita Micoli. Si sta concludendo proprio in questi istanti al Quirinale la cerimonia dedicata al giorno del ricordo di domani 10 febbraio, eventi emotivamente a noi vicini su cui è necessario stabilire dei punti fermi, ha detto il capo dello Stato, parlando del nostro muro di Berlino a Gorizia che ha diviso famiglie e affetti. Furono l'Istria, Dalmazia e Fiume a pagare il prezzo più alto, ha detto Mattarella. I nostri cittadini, dopo aver lasciato tutto, provarono l'esperienza di essere esuli nella loro patria, accusati indistintamente di complicità con la dittatura fascista. La ferocia contro gli italiani non può essere derubricata ad atti di vendetta, le sparizioni nelle foibe, le torture, le uccisioni, ha detto Mattarella, colpirono cittadini che non avevano nulla che spartire con il fascismo e persino partigiani antifascisti. Una tragedia, ha detto il Presidente della Repubblica, che non può essere cancellata. I tentativi di oblio sono un affronto alle famiglie e alla nazione. Assistiamo con angoscia, ha concluso il Capo dello Stato, al risorgere di conflitti sanguinosi in nome dell'odio e di esasperati nazionalismi. L'Europa però ha contribuito e contribuisce a creare ponti dove c'erano divisioni. Gorizia ha concluso e oggi associata Nova Gorizia, due città, due stati, una sola capitale europea della cultura. 35.000 schede in ordine alfabetico di dispersi, fra loro anche gli esuli istriani, giuliani e dalmati, fotografie, documenti, un patrimonio enorme di proprietà della Croce Rossa del Friuli Venezia Giulia, per la prima volta svelato alla stampa e consultabile all'Archivio di Stato di Trieste. Nel servizio ascolteremo nell'ordine la presidente regionale di Croce Rossa, Milena Cisilino, la direttrice dell'Archivio di Stato di Trieste, Antonietta Colombatti, e l'archivista Ambra Betic. Scavare nella storia e scoprire un tesoro. Per la prima volta le telecamere mostrano una porzione di un patrimonio vastissimo, l'archivio della Croce Rossa del Friuli Venezia Giulia, con 35.000 schede in ordine alfabetico di dispersi del dopoguerra, fra loro anche gli esuli giuliani e dalmati. Noi abbiamo con orgoglio voluto trattenere sul territorio il patrimonio documentale storico riferito al periodo dell'esulanza, ma riferito a tutta la storia dei nostri territori. È un patrimonio al quale noi attingiamo ancora perché ci pervengono richieste da eredi, da familiari, di rintracciare eventuali passaggi di loro congiunti durante il periodo dell'esulanza. Dietro ogni scheda c'è una storia da raccontare, volti, famiglie, angosce di chi ad esempio non ha notizie del proprio padre, si rivolge all'unica rete internazionale esistente all'epoca. Non seppi mai nulla e venne arrestato dall'OSNA, dalla polizia politica jugoslava, e qui è un continuo di richieste di notizie sempre di persone per esempio nate a Pola. Abbiamo un impresario di pompe funebri del 1905, sempre nato a Pola, arrestato il 6 maggio del 1945 da partigiani polesani. È possibile che alcune delle notizie che noi troviamo in queste schede si riferiscono a persone infoibate, perché le modalità dell'arresto, le dinamiche dell'arresto e i responsabili dell'arresto ci fanno supporre questo. A volte noi troviamo i nominativi delle persone che sono ritenute responsabili delle scomparse, quindi chiaramente dei dati quantitativi e qualitativi di estremo interesse che consentirebbero di dare nome e cognome non solo alle persone ma anche alle grandi questioni. Qui si capisce davvero che parole collettive come profughi, esodo, guerra sono composte da migliaia di nomi e di vite. Dal 2019 ad oggi, in questi anni, la Croce Rossa ci ha versato già oltre 30 metri lineari di documentazione preziosissima che stiamo mano a mano scoprendo, è un lavoro in work in progress, e in realtà sappiamo che a breve la Croce Rossa verserà almeno altri 30 metri lineari di documentazione. A Gorizia, cerimonia di scoprimento di una targa commemorativa dedicata a Norma Cossetto, martire delle foibe e insignita della medaglia d'oro al merito civile. La cerimonia si è svolta all'ingresso del liceo classico Dante Alighieri, dove è stata posta la targa e dove Norma Cossetto completò gli studi superiori. Norma può rappresentare il dolore della patria, ma anche in una città che si appresta a diventare capitale europea della cultura, un elemento di pacificazione per questi territori, ha detto l'assessore Sebastiano Callari. Presenti fra gli altri il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, il sottosegretario all'istruzione Paola Frassinetti, oltre alla dirigente dell'ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame e ai familiari di Norma Cossetto. Voltiamo pagina. Calate nel 2023 le bollette di luce e gas per le famiglie della regione con un contratto di fornitura nel mercato tutelato. Il 2023 è stato l'anno in cui ci siamo messi alle spalle la grande crisi energetica. Il prezzo di gas ed energia elettrica nel mercato è sceso in maniera marcata e gli effetti positivi si sono visti sulle nostre bollette, ma continuiamo a pagare di più rispetto al pre-Covid. Secondo i dati elaborati dal portale facili.it, nel 2023 in Friuli Venezia Giulia abbiamo risparmiato oltre 700 euro rispetto all'anno precedente, per una spesa totale di 1.679 euro, 735 per l'energia elettrica, 944 per il gas. La nota negativa è che siamo ancora sopra il livello del 2019, quando tra gas e luce spendemmo 400 euro in meno del 2023. Il conto più salato lo pagano gli utenti dell'ex provincia di Udine per via del maggior consumo di energia elettrica e metano. Rispetto alla bolletta media italiana, in Friuli Venezia Giulia si paga meno per la luce e di più per il gas. L'analisi si basa sui consumi dichiarati, la stima è calcolata sul mercato tutelato che prevede tariffe stabilite dall'autorità nazionale, l'ARERA, ma nel libero mercato il discorso è analogo per chi ha un contratto a prezzo variabile che è legato all'andamento del mercato stesso, appunto. Il tutelato andrà in pensione il 1 luglio, sostituito per 3 anni da quello a tutele graduali, che oggi appare molto conveniente dopo la recente pubblicazione dei risultati delle aste competitive. Negli ultimi mesi sono state ridotte le agevolazioni per via della discesa dei prezzi di mercato, a partire dal ritorno graduale degli oneri di sistema. Inoltre, per godere del bonus sociale, la soglia ISEE è stata abbassata da 15.000 a circa 9.500 euro. Da gennaio 2024, infine, è stato archiviato lo sconto IVA sul metano. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Invenzioni digitali per l'industria e per la logistica, se ne è parlato a Pordenone all'ottavo appuntamento della rassegna Metal 5.0 dedicata ai futuri scenari industriali. La meccanica sposa l'elettronica e dal distretto della meccatronica, della robotica e dell'automazione nascono nuove opportunità di lavoro, che necessitano tuttavia di figure professionali appositamente formate. Se ne è parlato in un convegno all'Istituto Tecnico Settore Tecnologico Kennedy di Pordenone nell'ambito della rassegna Metal 5.0 che ha riunito esponenti di svariate aziende. Luigino Pozzo, PMP Industries. La meccatronica sostanzialmente è l'evoluzione della meccanica che ha dovuto spingersi in una direzione, diciamo che guidata dall'elettronica, per fare in modo che le prestazioni delle parti meccaniche abbinate all'elettronica e ai software derivanti siano sempre più performanti e sempre più precise. Quindi è stata un'evoluzione tecnologica degli ultimi 20 anni. Mauro Moro, amministratore delegato Savio Macchine Tessili SPA. La meccatronica, che è l'integrazione tra competenze meccaniche e competenze elettroniche, che oggi si integra ulteriormente con il digitale, diventa uno degli elementi necessari per pensare alle macchine del futuro, che saranno macchine che avranno dei contenuti di intelligenza e di capacità di gestione autonoma dei processi che oggi ancora non immaginiamo. La ricerca di profili con formazione tecnico-scientifica è dunque una delle necessità che le aziende devono sostenere per affrontare l'evoluzione tecnologica. tutte le imprese come le nostre stanno cercando tecnici preparati da questo punto di vista, e quindi non solo preparati dal punto di vista della meccanica, ma anche tecnici che hanno avuto un percorso scolastico legato all'elettronica. Quindi sono due cose che vanno di pari passo, sia dal punto di vista del prodotto, ma anche dal punto di vista del processo di produzione. Non sono sufficienti nelle aziende gli investimenti, ma la base fondamentale oggi è avere dei tecnici preparati che siano in grado di dominare queste tecnologie. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. La battaglia per il controllo di assicurazioni generali passa anche per il Parlamento. Va verso l'approvazione definitiva il cosiddetto DDL Capitali, e nel testo c'è anche un articolo che disciplina il rinnovo dei consigli di amministrazione, come appunto il Leone di Trieste. E su questo tema la polemica politica non si ferma. Le nuove regole sui CDA delle società quotate in borsa dividono la politica. Diventa legge la possibilità per i consigli uscenti di presentare una propria lista, che dovrà essere formata da un numero di candidati pari al numero di componenti da eleggere, maggiorato di un terzo. Se questa lista vince l'elezione, occorrerà poi un'altra votazione nominale per scegliere i singoli candidati che faranno effettivamente parte del board. Le liste che invece perdono le elezioni avranno comunque uno spazio in consiglio non inferiore al 20% e proporzionale ai voti ottenuti. Una norma più stringente per i CDA uscenti e più favorevole alle minoranze, è già interpretata da diversi analisti in chiave generali come favorevole a Francesco Gaetano Caltagirone, da anni impegnato in una battaglia per il controllo del Leone con l'azionista di maggioranza relativa che è Mediobanca. Una norma che in ogni caso, secondo il PD, che sul punto votato contro in un testo per il resto ampiamente condiviso, è un fattore di instabilità per le grandi aziende interessate. Deborah Serracchiani. Crea le condizioni di una potenziale ingovernabilità di CDA importanti, di aziende anche del nostro territorio. Ecco, questa instabilità è assolutamente pericolosa, oltre che essere un articolo incostituzionale, come ci hanno detto molti auditi, da più punti di vista, ed essere probabilmente contrario alla normativa comunitaria. Ciò nonostante è stato approvato dalla maggioranza e da questo governo. Dal centrodestra il leghista Marco Dreosto ricorda che un intervento sulle regole di formazione del CDA era stato proposto nella scorsa legislatura dallo stesso PD. Per quanto riguarda la Lega, questo provvedimento ha visto il nostro soffermarsi in particolare su quella che è la salvaguardia del credito per i territori e sull'afflusso di capitali alle piccole e medie imprese e all'economia reale in generale. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo ora della situazione del meteo. Piove fino a 1800 metri di quota su tutta la montagna friulana, che per colpa di una perturbazione di stampo autunnale durerà fino a lunedì mattina, una situazione che potrebbe mettere a dura prova le piste da sci nei prossimi giorni. Oggi chiusa a Sella Nevea la Funifor, la funivia che dal rifugio Gilberti sale fino a Sella Golovez. A Tarvisio tutti gli impianti sciistici sono aperti, chiuso il parco di Nevelandia. Domani mattina si valuterà se riaprire o no. A Forn di Sopra, Sappada e sullo Zoncolan si continua a sciare su tutte le piste nonostante la pioggia. A Piancavallo chiusi gli impianti del Sauche di Casere e la pista Salomon. Il problema maggiore è rappresentato dalla nebbia, che non consente una visibilità sufficiente per sciare in sicurezza. Promoturismo FVG sta predisponendo un piano d'emergenza per valutare da domani l'apertura delle piste e l'eventuale uso dei mezzi battipista nella notte, visto che sul Monte Canin sono previsti 80 centimetri di neve fresca. Stiamo monitorando la situazione ora per ora, fa sapere il direttore operativo Jacopo Mestroni. La nostra priorità è la salvaguardia dei tracciati e la sicurezza degli sciatori. Domattina faremo le nostre consuete ispezioni sulla pista da sci e valuteremo la loro apertura. Carnevale bagnato dalla pioggia, sarà un fine settimana di maltempo, come spiega il previsore dell'ARPA Sergio Nordio. La situazione del tempo sulla regione nei prossimi giorni sarà caratterizzata dalla presenza di una depressione che coinvolge gran parte dell'Europa centro-meridionale, e questa configurazione porta correnti molto umide da sud-ovest inizialmente nella giornata di oggi e da sud nella giornata di domani. Questo porta brutto tempo, quindi condizioni di cielo coperto sulla regione, piogge che saranno in genere moderate sulla costa, più abbondanti anche intense sulle zone interne, e nevicate in montagna, inizialmente però a quote piuttosto alte, attesa neve infatti sulle Prealpi oltre i 1600-1800 metri di quota nella giornata di oggi e di domani, quote un po' più basse ma sempre oltre i 1300-1400 metri sulle zone più interne, Quota neve che si abbasserà un po' nella giornata di domenica e anche lunedì mattina, dovrebbe arrivare intorno ai 1200 e continuerà ad esserci pioggia domenica su gran parte della regione e fino a lunedì mattina. Quindi abbiamo una fase di cielo grigio piuttosto prolungata. Dal pomeriggio di lunedì e poi finalmente martedì avremo un deciso miglioramento, tornerà il sole con aria più secca, un po' più fresca, quindi martedì grasso sarà una bella giornata. E vediamo dunque le temperature registrate alle 11 a Trieste 13 gradi, a Gorizia abbiamo 11, Udine e Pordenone 9 gradi e mezzo, in montagna Tarvisio 8 gradi, Tolmezzo 6, Piancavallo 4 e mezzo, Forni di Sopra 3 gradi, a Sappada 1 grado e mezzo, sul Monte Lussari 1 grado e 5 decimi, sullo Zoncolan 0 gradi, sulla costa Lignano 11 gradi. No, a Lignano 10 gradi, a Grado 11 e mezzo. Comprendere la variabilità delle calotte polari dell'Antartide e dell'Artico per definire le proiezioni future dell'innalzamento del livello del mare è il focus dello studio di un gruppo di ricerca composto da 29 esperti internazionali a cui partecipa anche l'OGS, Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste. Lo studio, coordinato dall'Università di Lincoln nel Regno Unito, è stato pubblicato sulla rivista Nature Reviews e definisce le priorità di ricerca per lo studio della variabilità delle calotte, di cui alcune parti rispondono molto più rapidamente di quanto si pensasse sinora al riscaldamento del clima. La perdita di massa non è una semplice risposta uniforme al riscaldamento, ma è punteggiata da brevi eventi estremi capaci di innescare importanti perdite di massa. Di qui la necessità di monitorare sia i cambiamenti a breve che a lungo termine nelle calotte glaciali per ridurre l'incertezza delle future proiezioni dell'innalzamento del livello del mare, ha spiegato Laura De Santis, ricercatrice dell'OGS. E adesso cambiamo argomento. La Società della Ragione ha organizzato questa mattina una conferenza stampa a Udine per fare il punto sulle azioni giudiziarie per il risarcimento alle vittime dei crimini nazisti in Italia. Uno dei relatori è stato l'avvocato Andrea Sandra, che segue alcune di queste cause e che ci ha spiegato come stanno andando. Le cause nascono da un decreto legge che è del 2022 e che fissava un primo termine a ottobre dello stesso anno per presentare le cause in cui chiedere l'accertamento dei fatti relativi a presunti o quantomeno pretesi danni commessi dall'esercito tedesco nel periodo dell'occupazione in Italia. Il termine poi è stato ulteriormente ampliato per due volte, da ultimo fino al 31 dicembre del 2023. Le cause che seguo io sono tutte riferite a Friuli Venezia Giulia, anche se poi i tribunali investiti sono anche nelle altre regioni, ma sono circa una trentina e hanno una casistica abbastanza eterogenea, perché si va dagli internati militari deportati nei campi di concentramento in Germania fino all'eccidio di Malga Promosio e ai comportamenti invece illeciti tenuti nei confronti di partigiani o cittadini normali. E quali sono i primi risultati? Il risultato negativo è il fatto che da parte dello Stato c'è una forte resistenza, perché mentre la Germania non si è costituita nei giudizi, lo fa il Ministero dell'Economia, che noi riteniamo, dico noi perché siamo in collegamento con altri colleghi che operano sulle altre regioni, noi riteniamo che il Ministero non abbia titolarità in questi processi. Tuttavia si è costituito il Ministero attraverso le avvocature e oppone delle resistenze, sentenze per quanto mi riguarda non ce ne sono ancora, qualcosa è uscito ma non in Friuli Venezia Giulia, ad eccezione di una sentenza di Pordenone molto importante che comunque dà pienamente ragione ai ricorrenti, quindi riconosce non soltanto il fatto subito ma anche il diritto al risarcimento. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo agli spettacoli. È aggiunta sabato pomeriggio alle 16 una nuova recita del musical Cats al Teatro Rossetti di Trieste, dove ieri si è svolta la prima, grande il successo di pubblico. Due occhi gialli sullo sfondo nero. La musica incalzante e sinuosi entrano dalla platea sfiorando e stupendo il pubblico i protagonisti del musical dei record, Cats, che ha debuttato ieri sera al Teatro Rossetti di Trieste, repliche fino a domenica. Aggiunta una recita non prevista sabato alle 16, tanto è stato il successo al botteghino. E ti orienti se mai tu la via smarrirai. Ma che parte si va verso l'eternità? Per la prima volta al mondo l'autore Andrew Lloyd Webber ha concesso al regista italiano Massimo Romeo Piparo di ambientare il celebre show degli show di Broadway a Roma, in una ipotetica e futuristica discarica di opere d'arte e di reperti archeologici con il Colosseo sullo sfondo. Sul palco 30 artisti sottoposti ad una sorprendente metamorfosi dopo lunghissime sedute di trucco ed è un trionfo di baffi, lunghe code e zampe felpate. Risultato, un'irresistibile colonia di gatti umanizzati che cantano e ballano sulle rovine della città eterna in un'atmosfera scandita da fantasia, dramma, romanticismo, grande musica. Io mi tuffo nella mousse e la lasci sola lì dove c'è il caffè, non la troverai mai più. Ha battuto tutti i record di longevità, spettatori, incassi. Cats è stato visto da oltre 73 milioni di persone sul palco di oltre 300 città del mondo. Grazie a tutti! Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora andiamo a Sanremo a seguire per noi il festival e a trovare ogni giorno spunti in chiave locale il collega Oscar Puntel, che ha incontrato l'inviato di Radio Capodistria e non solo. Manca pochissimo alla finale, guardate che bello che è l'ingresso del teatro Ariston. Prima siamo andati al Casinò e guardate che abbiamo incontrato. Questi sono gli studi della RAI, studi della radio, e qui troviamo gli amici di Radio Capodistria. Abbiamo in particolare Ferruccio Crevatin. Che cosa ci fai qui? Qui andiamo in onda in diretta tutti i pomeriggi in virtù degli accordi EBU della Eurovision, di cui facciamo parte. Siamo collegati in diretta dagli studi RAI al Casinò Municipale di Sanremo per questa terza giornata del Festival della Canzone Italiana. Tu praticamente utilizzi le nostre strutture per trasmettere in Slovenia. Abuso delle vostre strutture per trasmettere in Slovenia e naturalmente su tutte le piattaforme alle quali siamo collegati, e questa è una collaborazione molto molto molto fruttuosa, possiamo dire, che appunto si trascina da tempo immemore. Senti, Ferruccio, da quanti anni segui il Festival di Sanremo? Da 37 anni, ahimè. L'edizione a cui sei più legato? Sicuramente quella del Palafiori, perché 90. Nel 90 fu un'edizione immensa. Guardiamo adesso a questa edizione, parliamo di canzoni. Qual è che secondo te è quella che è in odore di vittoria? Ma che in odore di vittoria potrebbe essere Angelina Mango con Il mio beneplacito, perché è un capolavoro di canzone, direi una canzone napoletana in lingua italiana. Sembra un controsenso, ma non lo è. Poi naturalmente c'è anche Annalisa sul podio delle scommesse e la grande Loredana Bertè. Come possiamo salutare gli amici del Friuli Venezia Giulia che ci seguono? Con un grande e strepitoso abbraccio. C'è un interscambio tra i servizi del TG di TV Capodistria e la TGR del Friuli Venezia Giulia RAI. Grazie Ferruccio, buon lavoro, ancora qualche curiosità dalle strade di Sanremo. Direttamente da Cividale, Gigi Nardini, il sosia di Pavarotti. Chi vince questo festival? Secondo me dovrebbe piazzarsi bene una Barrara, io l'ho conosciuta da ragazzina qua, Annalisa, perché è una ragazza che ci propone sempre emozioni e sempre delle canzoni che vanno bene sia ai nipoti che ai nonni. All'alba vincerò. Oscar Puntel, TGR Friuli Venezia Giulia. A causa del maltempo è rimandata a data da destinarsi la sfilata di carnevale delle scuole prevista a Muggia e anche il carnevale carsico a Opicina. Alcuni appuntamenti: prendi a sorsi il vino, prendi a sorsi la vita, la compagnia Arti e Mestieri con Arte Insieme in un concerto recital alle 20.45 a Stevenà di Caneva, a Villa Frova, nell'ambito del progetto Un fiume di storie fra Veneto e Friuli per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati in regione. Presentazione del film In statu nascendi sulla figura e opera di Milko Bambic, estroso artista, critico e creativo triestino, autore del primo fumetto sloveno e creatore del logo della Radenska, al Miela di Trieste alle 20 a cura della Chinotelia di Gorizia, alla presenza dell'autore Radovan Čok. La compagnia Goriziana Amanti del Teatro presenta la commedia In atto unico, La vita è un dono meraviglioso, alle 18.30 al Centro Giovanile di Roiano a Trieste, organizzata dal Centro di Aiuto alla Vita. Doppio appuntamento, quello che conclude la seconda edizione del Festival Efemera alle 18 a Trieste, Studio Tomaseo Trieste Contemporanea, sarà proiettato in anteprima il film Poch, una nuova produzione dell'artista Elena Mazzi, realizzato attraverso un processo partecipativo durante una residenza d'artista a Moggio, dove il film sarà presentato domenica alle 15. E a Bressa, protagonista del lavoro della classe terza B della media Marchetti di Campoformido, oggi uno studio che ha ricevuto il terzo premio al concorso nazionale In cerca del mio paesaggio, organizzato da Italia Nostra, sarà presentato alle 18 nelle ex scuole elementari. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, alla parte tecnica Bruno Montevecchi e Mauro Cumin, in segreteria Laura Sarasini e Samantha Gon. Da Francesca Terranova e Rita Micoli, grazie per l'ascolto. L'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.